musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me. Balla. Hey! Hey! Come prima, più di prima t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Come prima, più di prima t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Quando l'anno, il giorno.